How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento. Un ben ritrovato alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Grade che anche quest'oggi si sono collegati per seguire questo nuovo episodio della rubrica di geopolitica e geoeconomia dal titolo Parola a Vento, una trasmissione curata dal gruppo insegnanti di geografia auto-organizzati e condotta dal professore Andrea Vento, che quest'oggi affronterà la questione degli effetti che produrrà, ma che già sta producendo in questi primi giorni, dall'amministrazione Trump sul subcontinente latinoamericano. Il titolo nello specifico è Trump tenta lo strangolamento finale di Cuba, in quanto il ritorno in grande stile della dottrina Monroe nel contesto delle linee politiche della nuova amministrazione sta già destando forti preoccupazioni nell'intero subcontinente latinoamericano. E da alcune parti viene individuata l'adesione ai BRIC Plus come una possibile strategia emancipatoria che consenta di sottrarsi alla pressione crescente che è già in corso fino dai primi giorni successivi al 20 gennaio, data di assunzione del mandato da parte di Trump. Nelle 24 ore successive al suo insediamento alla Casa Bianca, il neopresidente Trump ha firmato ben oltre 100 decreti di urgenza, dai quali gli analisti hanno estrapolato interessanti indicazioni su quelle che potrebbero essere le principali linee guida politiche dell'attività di governo durante il suo secondo mandato presidenziale. Dando seguito al discorso del 7 gennaio, nel quale da presidente in pectore aveva annunciato, destando sorpresa e preoccupazione, di voler annettere il Canada come 50° Stato dell'Unione, di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca e di volersi riprendere il canale di Panama, a suo dire inavvedutamente restituito anzitempo dal presidente Jimmy Carter ai panamensi nel 1979 in base ai trattati Torrijos-Carter del 1977, che altrimenti avrebbe avuto un orizzonte temporale di restituzione della fascia del canale nel 1999. Da queste forti dichiarazioni, in diversi avevano interpretato la volontà di Trump nel contesto di una ridefinizione degli assetti geopolitici su base multilaterale, di voler serrare le fila sul continente americano, rispolverando a due secoli dalla sua enunciazione nel 1823 in chiave 2.0 la mai abbandonata del tutto dottrina Monroe. Non poche preoccupazioni sono quindi immediatamente serpeggiate in America Latina, vittima predestinata di tale teoria imperialista. E in particolare il pensiero è corso a paesi come Cuba e Venezuela, già crudelmente presi di mira da Trump nel suo primo mandato, causando l'inasprimento di situazioni di per sé già economicamente non particolarmente prospere e provocando gravi sofferenze alle rispettive popolazioni. I timori suscitati il 7 gennaio hanno trovato conferma subito dopo il suo ingresso nello studio ovale, appunto il 20 gennaio, quando ha immediatamente proceduto alla firma di un decreto, fra gli oltre 100, che riguardava proprio il reinserimento di Cuba nella lista degli stati che sostengono il terrorismo, dalla quale La Habana era stata depennata solo pochi giorni prima da Biden, prima della sua scadenza del mandato. Un provvedimento arbitrario, in quanto privo di prove a supporto, che è andato ad aggiungersi alle 242 misure restrittive già da lui stesso adottate durante il suo primo mandato e al bloqueo economico, finanziario e commerciale imposto nel lontano 1961 da John Fitzgerald Kennedy. L'obiettivo è quello di tentare lo strangolamento economico finale del paese, già provato, come detto, dagli effetti dei precedenti draconiani provvedimenti, e di porre fine all'esperienza emancipatoria della rivoluzione cubana, rea di essersi ribellata al giogo imperialista tramite la rivoluzione castrista del 1959 e di aver scelto la strada dell'autodeterminazione nazionale e un modello economico basato sull'equità e sul progresso sociale. Il recente ingresso di Cuba nei BRIC Plus ad inizio di quest'anno, in qualità di membro associato esterno insieme alla Bolivia, potrebbe rappresentare l'ancora di salvezza per la rivoluzione stessa, a condizione che porti in tempi rapidi ad un incremento significativo degli scambi commerciali, riuscendo così a sollevare la popolazione dalle strettezze in cui è precipitata a causa delle precedenti numerose misure restrittive. Provvedimenti unilaterali, questi ultimi, fuori dal diritto internazionale, puntualmente condannati ogni anno dall'Assemblea Generale dell'ONU, praticamente all'unanimità, salvo il contrario dei soliti Stati Uniti e Israele. Il secondo mandato di Trump, sin dai suoi primissimi giorni, prospetta quindi, come non solo da noi paventato del Giga, un deciso aumento delle pressioni sull'America Latina in generale, a partire dalle rivendicazioni sul canale di Panama ribadite nel discorso di insediamento, e in particolare per motivi di avversità ideologica contro Cuba e Venezuela, ma non solo. Ma la tempora currunt a sud del Rio Bravo. Ed anche per quest'oggi abbiamo terminato questo episodio, breve ma particolarmente significativo, in quanto abbiamo delineato ciò che potrebbe verificarsi e forse, come abbiamo visto, sta già verificandosi in base a questi primi provvedimenti d'urgenza adottati da Trump in relazione alle relazioni geopolitiche fra il potente e scomodo vicino nordamericano e il resto dell'America Latina posta a sud del Rio Bravo. Non mi resta che salutare calorosamente le radioascoltatrici e i radioascoltatori che anche quest'oggi ci hanno seguito e di dare appuntamento a una prossima puntata della rubrica Parola a Vento. How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Parola al Vento, rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.